5 ottobre, giovedì, un giovedì ricchissimo per questa serata in musica e con la collaborazione di Angelica avremo modo di entrare nel dettaglio per il segmento dedicato a questa serata. Sono le 7:48 minuti, abbiamo tirato giù dal letto un co-curatore del festival, Luca Vitali, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno Luca e grazie. Buongiorno William e a tutti gli ascoltatori. Allora, questa sera farei un po' tardi, la giornata è lunga anche per te, immagino, quindi insomma sì, direi di sì, ma sarà una, sicuramente una serata intensa, ma fatta di belle cose, insomma, sì. Domani avremo occasione sicuramente sì. Di ascoltare della buona musica. Sì, condivido questa tua osservazione, anche perché il doppio set al Teatro San Leonardo con Emanuele Maniscalco, lui batterista, e il duo Biagio Marino e Zeno De Rossi, che già abbiamo conosciuto con il Jazz Live, saranno protagonisti con progetti che avranno un aspetto eterogeneo ma allo stesso modo di continuità. Zeno De Rossi è anche lui batterista, insomma iniziamo con Emanuele Maniscalco. Il nome del progetto è una parola danese, so che tu hai una grande passione per tutto ciò che è sonorità scandinava, quindi la saprai pronunciare meglio di me. Io ho intuito la traduzione che è un aspetto di trama tessile, che è weaver, non so se ho pronunciato bene, più o meno. A te la parola e magari spieghi anche di che si tratta, Luca. Sì, Weaver è un progetto che è nato in Danimarca e Manuele ha studiato alla Rhythmic School di Copenaghen negli anni e si è trasferito anche a Malmo in Svezia per qualche tempo, per cui è un musicista che viene da Brescia, classe 83, che fin da giovane si è fatto conoscere in qualche modo, nel senso che ha iniziato ad 8 anni a studiare pianoforte, ma a 13 anni si è dedicato al studio da autodidatta della batteria. Giovanissimo è entrato a far parte dei gruppi di Enrico Rave e di Stefano Battaglia, di Under 21 e New Generation. Weaver, proprio come dici tu, ha a che fare con le trame e i tessuti, e il tessitore sarà lui questa sera. Emanuele cercherà di tessere questa tela costituita da queste sue due anime, quindi quella del pianista e quella del batterista. In entrambi i casi cercherà di usare timbri e armonie particolari, sicuramente un lavoro molto molto ricercato, che è stato anche punto di riferimento per una coreografa, Camilla Monga, che ci ha costruito uno spettacolo di danza intitolato Sull'attimo. Quindi un lavoro sicuramente molto molto molto particolare, in cui anche al piano lavorerà in simultanea con la batteria, gestendo anche elementi di ritmica che a mio avviso danno una connotazione molto particolare al progetto. Io ho selezionato un brano da questo lavoro, hai la possibilità di stare un paio di minuti all'ascolto, poi rientriamo per dare spazio anche a quello che sarà con Biagio Marino e Zeno De Rossi. Io lancerei il brano Nero, appunto, di Emanuele Maniscalco, e poi torniamo in diretta su Radio Città Fujiko con Angelica e Luca Vitali. A tra poco, Luca. A tra poco, grazie. incisivo, evocativo, apparentemente minimale, ma in realtà pieno di suoni, una struttura reiterata ma mai ripetitiva. La fantasia, il percorso, come ho detto, molto evocativo e nello stesso tempo intenso, di Emanuele Maniscalco, questa sera dalle ore 19:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, per una serata veramente ricca. Con noi co-curatore della rassegna Angelica, Luca Vitali, finalmente ci sentiamo, e da un po' tra l'altro che avevo questa iniziativa, stavo covando appunto questa conversazione con Luca, anche perché volevo chiederti di questa tua passione e attrazione per tutto ciò che è scandinavo. Come nasce questa attenzione particolare, Luca? Il tutto nasce grazie alla Norvegia principalmente, che nel corso degli anni ha fatto, come dire, ha dato vita a una scena molto fuori dai generi, e ha cercato in qualche modo di trovare, di dar vita a una voce propria per voce di tutti i suoi giovani emergenti a cavallo degli anni 90, fine, inizio anni 2000, per cui di fatto ho iniziato ad indagare quel tipo di scena e via via mi ci sono appassionato, proprio perché è una terra, diciamo così, fatta di artisti uno diverso dall'altro, cosa che sempre meno si trova in giro. Tipicamente i musicisti tendono ad omologarsi un po' e a seguire delle linee, delle tendenze. La Norvegia in questo è stata abbastanza unica e originale, come sì, musicisti di questa sera, nel senso che anche Emanuele sicuramente è un musicista che ha preso molto spunto da quello che la Scandinavia ha dato come lezione alla scena musicale europea, e anche Biagio e Zeno, più riferiti sicuramente a quella che è l'area downtown New York, ma hanno saputo trovare una loro voce, una loro originalità. Sì, in ogni espressione, poi, anche se non ha senso parlare di recenti musicali, ma dalla Scandinavia anche per il pop, per quanto riguarda il jazz, il modern jazz, l'elettronica, la ricerca, tanti giardini e tante fioriture, l'una diversa dall'altra, ma legate dal filo conduttore dell'originalità. A seguire Biagio Marino e Zeno De Rossi. Zeno De Rossi già lo seguiamo con Jazz Live, ma in questo caso lo troviamo in un'espressione, come hai detto tu, un pochettino diversa. Ce ne puoi parlare, Luca? Sì, il progetto si intitola Break Seal Gently, letteralmente rompere il sigillo delicatamente, come dire, e devo dire che prende abbastanza l'idea di questo progetto, un duo molto intimo costituito da chitarra e batteria, in cui l'autore delle musiche è Biagio Marino, un chitarrista che è cresciuto qui a Bologna musicalmente, e devo dire ha con questo lavoro dato vita a un progetto molto molto originale, in cui lavora molto sull'accordatura della chitarra. E quello che ho trovato particolarmente interessante è il fatto che non ricorre a trucchi o effetti speciali, ma come dire, si è affidato alla maestria di Zeno De Rossi per cercare di in qualche modo dipingere un ricco fondale che possa essere, come dire, contesto ideale per il lirismo della sua chitarra, diciamo. Certo, io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione di grande qualità e ricerca. Ricordo che, a proposito di ricerca, è al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo per Angelica questa sera, giovedì 5 ottobre, dalle ore 19:30. Mandiamo un brano, Codex, anche dal duo Biagio Marino e Zeno De Rossi, e ci diamo appuntamento per un altro incontro. La rassegna Angelica è quanto mai estesa, avremo modo di sentirci ancora magari, Luca, e grazie infinite. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Ciao. Ciao. la linea di Biagio Marino, la ritmica di Zeno De Rossi, senza trucco e senza inganno, buona musica, pochi effetti, ma tanto talento per quanto riguarda questo chitarrista che avremo il piacere di ascoltare questa sera alle 19:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo per la rassegna Angelica, che come ben sapete con ultrasuoni è seguita da Radio Città Fujiko e non solo, qualche incursione anche in Jazz Live che ricordo è domani dalle 11:30 alle 12:30. Ascoltiamo ancora un po' di questo brano Codex e poi torniamo in diretta per la rubrica In Mostra. Radio Città Fujiko il giovedì 5 ottobre, tra pochissimo dopo la pubblicità.